basso, basso, brava 2-1 e tutto a posto. 5-2. E mi dite, basso 1. Chi è? Chi è? Che sta bussando? Un'ora sì, zocca zocca. No, mi trombi. Tu hai perso, brava. No, mi trombi, ci dice dare un cucco. Io lo sapevo che eri tu, la mia capita mia, che ti conosco al volo, oramai, il top è sempre lo stesso. Ehi, ragioni vai, hai ragioni. Ehi, non c'è nessuno, è un'ora a sé, ginocchi, manco soli. Ehi, Villa Foggi. Ho trovato il due dedo finalmente va. E sicuro, gioco sempre venti, ma talenti mi rugabba a trece a sinistra. E cosa ne fai? Cure di sabbia, Ivi. Oh, ma ci vuoi una messa? Ah, vero, sei tutti stracco, sì, da quanto hai fatto oggi, gatto. Sei tutti stracco. Ti sudori, gioco, vai. Pensa la lingua a ciumenni, faccio. E infatti, è tutto un bagno di suore, sotto la ricca. Te lo credo. Ma c'è. Via, dai, la canta è mangiato qui, si ricca, tu frisci, ma qua, ma c'hai buviti. E allora, sono brutti tutti. Ma voi friato voi. Sì, ma voi tutto friato con la crema. E allora, vi l'ha giudito a friarmi con la crema. Ai te. Sì, sì, hai ragione, Ti avanza muro. Ehi, poco una vala avanzata di crema. E beh, cazzo vira, cazzo vira. Con un giuccetto in bocca. Tutti tracca ancora so. Piatta, beh, ma non so chi li facesse tutti bene più pippanti che. E allora gli anni fumi, chi sei gente nata tracca, e se si muove gli stracchi. Ragazzi, ha rimagnato sui stracchi, infatti, sono le gara di movissi. Così è. E allora? Per carità, è bella gioventù bruciata. Per carità, la se mandè di mezza, si incontrai su basso. Questa gioventù di Abba non serve più a un tiro, non serve. Ma la se è privata. Se non fate il biggio. Ma che? Chi di un capolì però deve essere di cantamagnata e parito dalla circolazione, brutti. Deve essere imbuffato fuochi. Poi si immagina. Non penso che abbia mangiato la lette di pollo che il tuberino, dono. Come sempre, no? Io dico sei dedicato al cinghiale, al borcetto. Ah, te. Ehi, va se brufare, cazzo. Se io da voi si arrabbieggia e già non sai cosa fa, zietto. Ehi, non si fa vedere la biglia, non so com'è di pittuccio, un bizzino. Non fa male, no. Si arrabbia già buro, capito? Un bizzino. Ehi, anche voi la battimanna, voi, hai compreso? Non solo in tutto, che non entra da noi a salutarsi. Ma è noi la siamo favità. Com'è da salutare? Salutità. La si tracca. A vivo, è un buro, la si tracca. La giuvizio che ne abbia anche in enne su Facebook. Prendersi la pubblicità, era. Ed era tignenne con un rullo, era tutto affannato, era. Allora il nostro filadeo dice che sta da pulisciri, dai lacrimi. Però romaniani non vedono il cavolo, la laga da casa a riposarsi. Non per loro magnacchi, si va di tutto magnato, e non per arrivare nulla. No, ha detto che era tracco, e allora non l'hanno manco chiamato al collega, al sozio. Ah, così è. E allora, lo sozio era Cascegni, era andato sul travaglio, sei là dalla sul fianco. A chi mi stava troppo il suo fianco, allora si è girato a Tammasi. E allora, tu ne aggacco proprio, e sei girato dalla Tammasi, com'è che non l'hai domandato nulla? Un poco loffio è diventato, no? Mia Gio Maria Graziano, ogni tanto vi sento, buonasera. Ciao, buonasera, ben sentito. Stiamo parlando di quel mandrillo di Flipper e il suo socio, manicomio. Già lo so, salutate, che devo sto uscendo. Ciao Gio Maria, ci sentiamo, ciao a tutti. Ciao, buona passeggiata. A chi vanno i ruggioli in panza tutti e due? Vai Gio Maria. Ciao Tizio, sentiamo, all'improvviso, buon proseguimento. Devo andare a accompagnare Gabriele a calcio e quindi devo uscire. D'accordo, ciao, buon divertimento a voi. Ok, ciao. Ciao Tino, buona passeggiata. Compreso, Giammari. Ti vai a bocca a bestia, tutta la siringa sudata vai le buffenni. Dall'altro sentire, dall'altro fianco. A tava se poi si abbassa a terra, però mi pare che può respirare quando si muore abbassa a terra. Mi già fare un tubo di ossigeno che mi l'ha già impricciato, un tubo. Ha detto che è troppo affannato in quel periodo. Pizza l'ossigeno, un borcetto si sta incudito. Ah, e te, tutti i denti, si è consumato, si è altamagnato, gattara, grazie. E allora, dici, hai fatto come te la trivella, tutto ammazzinato. Ah, va, domani se la palaffina, beh, tutto quanto, almeno comincia a dorra, capito? Chi tu sei preparato la legna? Pappo di fuoco. E allora chi ti fa ruggioso in panza? Tu m'attesi, chi c'è sempre in panza al forno? Ha pigliato un bel gusto, fa pigliato, passa a fuoco a mazzano, basta a fuoco la sera, la notte. E a forza e basta a forno se è andato avanti, chissà che. Ma chi su che allunghetta ancora? E allora, c'è mangiato un po' questo periodo, dice, ha detto che ha ingrassato di 10 chili. Però ha ragione, però, deve mangiare, chi è dove va allattare? Lo commette noi. E dove va allattare ancora? È un periodo solo, deve mangiare. E allora, ancora ha detto. E se non le ha mangiata di zicchirrienni? Se non le ha mangiate, e c'ha sempre a zicchirri, sazi, come in te la zoncra. E allora, Tore non sente, chi si è disperso, da grande in pensione, travaglienni di più. Tore, si è bivato stupendo. Con un nipote, si è buttato a passeggiare la base all'altra. Da voi fa l'altro stupendo della figliola che deve buttare i cani alla base all'altra. E su da canturi di là che buchete che attorsa un di pulirlo, allora se ne andai in giro con un nipote. E allora chi è pagato da ore, bebiscite, fiori, vase più in caccia. Davvero. Stai già a fare il sastro pure già, e fede la parata gatta, e tu non fede lo sato. Ha detto che devi pigliare questa villa vicina a Bacchiccio che fai la piscina. A chi da voi a manco di boccia tutta i chivi e si cura a buio dei cuni. No, questo si muore di bene a moglie, a chi ti divina sempre c'è nel fumo, oppure andare a turra. Capito. Ah, secondo voi la vostra tranquillo, tu capito, ci riposa un poco. Ci saremo rosi, lì si sono attagliati a furia d'andare a turrà. Posa è presa dalla macchina, camminando a destra a sinistra, truccia va, truccia da voi, e si sono alterate le morroie di burro. E a distanza di attaccare un carrello per una macchina e poi c'hai sali marica che il carrello a passeggiava, capito? Anche dretta la macchina non li puoi punire, poi pure sul carrello e anda, ecco. Dica che il cane l'ha detto, si furia a gommolo pure a poltrona, se no recuria un mostro. Allora vuoi fare come te vuoi, tu capito? Non ti pare che sia così, mi trova da così, no? Stai a fare i conti, già. A Giumaggio Romagna, a Rugani, mi pare, a Rimani, l'ha detto, sto giocando con i cani. Ma non si che si vede le mani niente. Va, una cosa stessa, mi la stai pure fa. La stai pure fa, vai, già. Già sono mani fascinate, capito? Però la voi non fa che la lamentasse, ai no, che è di filo buro, E allora, arrivi lì, allora della zonca, quando è finito i pipistrelli da voi. Bacchisio, ma si chiese deve stare in mezzo alla cavafiora ancora, gatto. Chi si è mimetizzato in mezzo alla fava ed è con la carabina, chi la corraccia ne so maniere vince l'anteriore. Ah, allora deve essere grumito la gatta. Sotto all'albero a 70 kg, chissà se hai corraccio, così è. E allora, dici non so fare una pezza, non so mangiare né tutto, pure la buccia lì si mangia. Ah, te. Ma giù di sappare di chi mi caccia, da mangiare un chiccio veramente a nutti. E ricorraggio non venta le parole. E allora, ed è convinto, ed è come ci sarà lo cancello, chi ci sono banche e tendi. Grazie, di disi. Ah, va, ricorraggio, l'abbigliato vizio qui. Ha di freddo, quello mi tramontato, e allora andare la notte. Un dente legato si indassa, allora fa niente, cazzo, non mi sa mangiare, ma io ce lo fa fare, ragazza. E allora, sarebbe molto in campo che ci curracci di pannelli solari, ma farsi la ruzzi, e tutto non so mangiare, buono i fogli. Ma è già rilassato il tronco, che lo tronco è grosso, per cui già si arraggia a bacchisa a tiradiri. E allora, chi ci doveva vendirla la papa? Dove cosa vendi? Non vende manco una. Ma te tu hai sentito la papa, grazia, tenera. E allora fumimi. Ehi, hai durato la capa, la corraccia. Chi ce l'ha il problema, non è che siamo per fare pure a cusilla, no? Chi se la mangia le bucce e tutto ci mangiano. E allora, pensa un trucco dice ci sono magnetti. Faccio di piantare, pianta, però male non si mangia né la cavola buru. Tu ti ha detto non so mangiare né tutto, a tutto li so. Mi la so più bene questa campagna, come te c'è una voglia di fare, la prima sola non fai più. Aspetta, allora bisogna fargli che ci sono la maglia, un briglio di fila a bacchino. Che poco tutto per i serri e tacchia la chiama con un friscio muricco. Che avrà giuditto, via. Abbassa la testa, che dici che non vuoi più nulla, ti mangia la testa, attacca la borraccia, ti mangia lì. Si apposta la zavorra, si apposta un attimo, ma io si sono ridocca, li dai. L'altra di no che, per la borraccia attaccarne a un lobo. Se ci l'ha da pigliato un cantone e l'ha cotto un cantone, ma com'è non va a dare macchine? Lei era attaccata, se era pure una cosa, era macchina, la bella sarrata, se ne era andata e si sono accalati due curracci, l'hanno sfiorato un gabbo, dove ce l'hanno pigliato a beccate in testa? Oh boh, questi mi sono diventati allora. Pure a Paoletto la busca l'hanno attaccata in piazza, venendo da un negozio con la busca lì. Quando arrivi da metà in piazza e non che io l'hanno attaccata, l'è giunta correndo all'ingaffo. Ah, ma è da finire, l'hai saputa venire correndo, gatta. E ancora ci ha preso, gatta. Se tu non lo così sei, se è prasimata, anche chi ti l'hanno attaccata, se la vogliono mangiare. Dai, ma senti, 10 minuti, grazie, dai, rientro subito. Già sono qua. Che sospiro, avanti il sospiro. Che ne fai poco casino. Ma lo sapevo che eri mormito. Tanti saluti da Tino, è uscito. Da? Da Tino. Ah, grazie. Ciao Tino, se mi stai ascoltando. No, c'è, è andato via, devi accompagnare un nipote a giocare a pallone. Ah, ho capito. Era un figliolo, no, un nipote? Io ero un figliolo. C'è, ci sono io e Gianni Maria, si è assentato Gianni Maria. Ho capito. Chi te lo sei più inteso, ma l'hai visto su Facebook? Pubblicizzandosi, lui con il rullo imbiancando. Io l'ho visto su Facebook. Ha ragione, è andata in bianchina. Eia. E lo tipo di arrigatelli, ma te ne fai il caldaro. Bah, abbiamo una cazzata, a me c'ha ma scusa. Era poco. Ma non lo sai che poi si può rappignirsi per dare la sola, Ivi, c'ha paura. È vero. Allora, a Romacco li faccio in compagnia con la sua caldare più di mare lacrime. Che non muore l'azzurra. Ma so che un poco che non lo intende, dove si è mangiato un becchi, sì. Sicuramente sì. Sarà diventato più rotondo, cosa ne dici? Se non è più quadrato, non rotondo. Ma non penso che abbia mangiato la lette di bollo, che ci vedo. Secondo me si è dato al piatto forte, cinghialetto, porcetto e agnellino. Sicuramente sì. L'ali di pollo sono 30 di ghetta. E allora? Se ti sta dove? Vabbè, tanto di tu, che c'è mia vera giubona. E allora? Non dal giornale vera un programma 10 minuti questo medico dice vera che il tipo che l'ha visitato di circonferenza di Banza era 115 e più una Banza e quella faccia gli ha portato la diabete, il colesterolo alto, la glicemia alta. Allora l'ha messa a dieta e gli ha dato la cura, però oramai deve rimanere sempre in cura. E ogni dici, faccio un poco di cari, non rivaggi mare, l'ha detto. Noi ci abbiamo fatto una bella passeggiata ad Alghero, prima siamo alla macchina, l'abbiamo messa proprio all'inizio, noi dovevamo andare verso il porto, capito? Dove c'era, come si chiama, il traghetto che ti portava per andare alla Grotta di Nettuno. Da lì poi siamo ritornati indietro, allora siamo andati, siamo tornati indietro, siamo riandati di nuovo per vedere a Renzo Arbore e poi ce ne siamo andati, ma io mi fanno male alle gambe, ci credi? Ti bruba quando cammini un bel che si dà un bel senza camminare, ti bruba. Beh, camminare cammino, ma no così, cazzo. Magari hai camminato di più. Già fatti bene. Adesso questi giorni magari un po' ti fanno male. Però se ogni tanto lo fai, poi non ti fa più male. Ma già lo so. Dunque già fatti bene, non hai messo nulla. Oh, assolutamente no. Posso che fa bene. Ehi, no, io prima che camminavo un po' a buia, ma non cammino più come prima, magari. Da mezzanotte mi faceva da rotta e da platamona a piedi, ma come ne abbizzavo, scendeva e saliva al terzo pettine, tranquillo, con l'asciugamano. Mi faceva il bagno e mi ne tornava a sa. Io a piedi. E a piedi, di quanto oramai era abituato, ma come ne accorgevo? Picchia, non vivo a piedi. Guarda di quanto era abituato a fare quella strada, non facevo che neanche me ne accorgevo, tranquillo mi camminenni, scendevo e salivo. E ho capito, e vabbè, grazie. Prima trovassi, no, io una volta ho fatto sesta di produttore, sapete. Ho cominciato, la prima volta ho cominciato dal latte dolce sino al Mar Grazella e sono continuato in Davido. L'indomani ha giubato, da Ruatinozza a Riugavaru e sono continuato in Davido. Ho cominciato così, andavo sino a un pezzo e poi tornavo indietro. Poi, quando sono arrivato alla discesa di San Michele, dai Ghivi sono arrivato in Samet allo terzo bittine, sceso e salito. Poi il giorno appresso la stessa cosa, ma come me ne accorgevo, scendevo e salivo tranquillo. Che diavolo? Già camminavi prima, là. Così che non ti raccomando, se c'è a farlo, è parito. A voglia di camminavo. Ma come la pizzaccia te lo sto dicendo, e poi molte volte mi facevo dal terzo pettine la litoranea e striscia la rotonda, e molte volte dalla rotonda me ne salivo entrando. E camminando, aspetta un attimo, grazie, non trovo il telecomando, Sì, certo. È un mistero, non c'è un telecomando, eppure era nel letto. Si sarà parato sotto. O in terra, ma sotto il letto, guardate, dal bordo ci sarà acceso. E non ho mai sentito se cadeva in terra, grazie. Mi cacciavo con le cuffie. Ma suona. Grazie. Ehi, dimmi. Oh, si è avanzato di riso. No, tutto il cane già mangiato, aveva fame. Allora? A chi cazzo la Luca si ha mangiato pure rossi, si ha mangiato l'uguale, non l'ha da salute, allora bisognava attaccarli rossi a l'uguale di Luca, cazzo. Boh, ora non ha nessuno ne ha. Vabbè, chi? Quasi tutti vi danno un cane, pure Luca vi danno un cane. Ha già anni per Pasqua, una famiglia, zwei Töchter und Mutter, die neben dir parkiert haben. Die kleine irgendwie 10 hat die grösste Hurenstylerin, als wäre sie 19 und würde schon von jedem pümpelt werden. Ganz schlimm. Oh ja, das ist gut, das ist gut, grazie. Warum ist mir eine Stylerin, ist mir ein Kopf gefallen? Ist so Slatti rumgelaufen, also Slatti stylisch. Con la gamba, cos'è? Un cazzo di dente con le gambe. No, questi cani usano il comando, non è parato di giocare un ritto. Ah, bravissimo, ha tolto che il dente è diventato. Luca. Vero Luca. Bubu. No, le capitacchi colpo d'aria erano grosse notturno, no? Ah? Ok. E allora, colaretto. Ah, va, non si comprende nulla, grazie. Tu la ricomprendi? Entschuldigung, nome? Wieso du dich so gestresst hast, wegen der Chance, wegen dem Hund und wegen Geld und so Sachen? Also, weißt du, das ist das Problem, die ganze Zeit auf Nerven, wo ich immer mitliege, wenn ich das erzähle. Und es geht halt immer darum, irgendeinen Hund mit heimnehmen und sie wird zu ihren Eltern gezwungen. und darum muss so, weißt du, wohnt sie heißt, die hat eine Kohle, wollte aber wieder einen Hund drin haben, sie hat kein Geld, um irgendwie auszuziehen. Und was du sehr sparsam ist, ist sie einfach Geld rauswerfen. Der Job ist jetzt, dann werden sie schon wieder künden eigentlich. Und ja, das kann ich sagen. Aspetta, ecco, grazie. Ja, also so ein bisschen wie... Aspetta! Ja, neue Stufen extrem. Also sie hat wirklich alles. Jetzt bin ich noch human von uns zu geben. Ich mache einen Ausflug, sie kann nicht ausziehen, wirklich nicht, weil sie hat kein Geld. Aber eben, hat einen F3. Ja. Okay. Und ihr Vater ist ja fast gestorben. Vor etwa 2 Monaten, weil er einen ganz schlimmen Unfall gehabt hat. Und jetzt ein junger Hund, der mich irgendwo gegossen. Die haben schon einen Hund. Das ist wieder ein riesen Aufwand. Sie wohnt ja zuhause, also selbst kümmert sie sich um den Hund. Aber wenn sie zuhause ist, kümmert sie sich ein bisschen um. Ja, und darum muss ich das nicht sagen, ja. Wir sind nicht mehr rum, man muss langsam fahren. Und sorry, was ist mit Ihrem Papi? Der ist irgendwie von einem Gerüst erschlagen worden und ist fast gestorben. Der ist ganz schlimm und ausgeflitzt. Ich fahre einmal um den Kreisel. Autora e Luca! E altra parte, non è terra, l'altra parte del letto, dai, diciamo. Sotto le lenzuola, io l'ho trovato, sì. Aspetta che sta camminando, mi esci dalla strabbarsi. Chissà il traffico che c'è da in quel letto. Di la verità. Ciao Maru. Cosa hai detto? Sono da solo, magari chi sta qui dentro, sembra d'auto sui piedi. Mi qua, ci eseguono lavori in biancatura, pavimentazione in zona, rifacimenti, bagno, per informazioni contattare. Gianluca Marianini. Però mi sa che qua sta sgobbando forse. un giallo paglierino sta attingendo. Darva fuori avano su così lo bagno o la cucina, una finestra c'è, a un'anta, al bagno. Boh. Ah, guarda come ti impugnava il roccio di un rullo, mi appaio, è proprio esperto, un pantalone sbalacquara. E anche se da gruppo a dare tu, capito? Allora si passa a fare apposta. Smetti scatino. E dici una già occupava su un paio di bretelli. Come te li non pappi che mi ribarava il pantalone. Ma è due bretelli non li usa. A che mi vediamo un po' cutare, anche sulla droppa da reddo. No, che già fa il ventoso, là tutti buccati sul pantalone, ma entra l'aria. Ah, così, allora fa il ventoso, allora è pagissimo che sempre il pantalone fa la vala. Allora poi fare un tubo di scappamento che ogni tanto questa marmitta è tutta buccata, è sfiata. Vivi, Luca, vero? Und wenn einer mal langsamer fährt, ist nicht wieder einfach normal ist, sondern wieder am Handy. Cosa? Genau. Wieder irgendwie kein Benzin mehr hat oder so. Diglielo tu, Luca. Diglielo tu, Maria. Aspetta che bravo, un avvocato vuole i blacchetti degli interruttori, dei ripresi, fanno imbruttarli, roba che tu non ne fai, Luca, eh? Io vengo tutto. Ah vai, me, Ali, giallo paglieri, non disegni affatto, mi pare la faccia a lui, a Luca. È vero. E allora, bravo, è proprio quel giallo paglierino antico, mi acchiazze. Come tu sai? E allora, qui è cucina sicuramente, perché si vede un pezzo di terrazza e la porta a finestra, però i denti non erano cavati, E anche se ho dentro l'aria. No, allora lo facciamo, Luca, cosa ne dici tu? Li tendi, li puliamo, li bucate, da voi in terra, vicino alla porta a finestra, vi manca un pezzo di batti scopo, ammetta di attaccarlo, Luca. Veloce, fanno scappini, faro, zombie alla bruta. Bravo, però, Vabbè, andare a sura, l'urlullo. Ciao, pari. Cos'è, grazie, dimmi, dimmi. L'urlullo è ammaestrato, è camminando a sura, è già i pazzanelli. Addirittura, Senti che fa che c'ha voce, è l'uberio lo so, UN. Ammaestrato là, che c'è un rullo. Ma che ci fa un robot pronto? Tutto il robot fa si fa. E allora, a fare vostra pubblicità. Ma a colore ce l'ha fatta la pubblicità però, giallo paglierino e penne è un rosa antico, è bello, Luca Putiche, lui, il grande capo. Davvero? E allora, vai. Pittina, dimmi la verità, ma lo travagli, tutto il buonì, ma però chi sono, Lu! Ma ti sa passa dentro le penne d'oro, le penne, grazie, non hai visto? A chi dice l'appartamento dell'assessore, non so che ho l'assessore. Atta, tutto in oro massiccio l'ha fatto, tutto l'appassamento. E allora, ehi, si recuperende così all'assessore, No, e te? Bello, No, fino a più questo titolo, bello, bello, no. Adesso ce l'ha brutto, brutto. Questo sta offrendo la vostro stipendio da 2000 euro, non troppo operai. Luca, ci sei? Ah, che impegnato un robot, ecco. Mi dico di darci 2000, allora come fare 2700? 2000 euro di stipendio, Luca, allora... ho bisogno di assumere 30 lavoratori edili disponibili ad approntare trasferte che però non trovo l'appello lanciato nei giorni scorsi su Facebook, ho ricevuto appena 15 offerte. Allora, disponibile ad aprire sono sui consigli di ricevuto comunque non disponibile via da quando riferiscono Parisotto titolare Euroedia, società concessione nei poteri servizio della quale operaio gestisco dipendente candidato di Luce Idone ha occupato i posti che sono stati solo 7 le assunzioni e stata Luca! Ma cosa vuol dire dicendo? Non si comprende? Non ti comprendo, boh. Questo tipo sta cercando operai, manovali, muratori, per lavori edili. 2000 euro al mese offra, nel corso dell'ultimo mese abbiamo dovuto rinunciare il 40% delle commesse che ci sono arrivate, ha detto Parisotto si chiama, per mancanza di manodopera, oppure inquadramento contrattuale, contratto, nazione, alla giunta plus sicurezza e capacità, aspetta sto leggendo, allora conclude il titolare, arriverà a percepire anche grazie a questi premi quasi 2000 euro al mese, gli altri incassi quasi però comunque dice che ne operai anche quest'altro, imprenditore, in alcuni casi però sono arrivate le repliche dei lavoratori e le polemiche appiccate del sindacato, vedi caso proprio della Veneta, contrattali di lavoro non erano proprio così buoni come avevamo per nostra azienda, aspetta. È vero. Comunque dice che di 30 operai, Luca, se ti interessa guarda su Facebook. Si chiama, cosa si chiama? Parisotto. offro stipendio da 2000 euro, non troppo operai, per Cristo, guarda lì. Ma li so che sti facendo travaglia poi ti bruciano. No, ho assicurato tutto, però devi trasferirti a viaggiare lì me. E dov'è? Beh, sarà sicuramente in continente. Beh, la facciate di su, boh. Poi dice, disponibile ad approntare trasferte, che però non trova. D'appello lanciato nel giorno scorso su Facebook. Infatti ha ricevuto appena 15 offerte, metà delle quali di persone fuori regione. E comunque non è disponibile a viaggiare. E allora no, lo mandano lì. E di Ginocchi, allora, quindi di persone fuori regione comunque disponibile a viaggiare quando riferisce Nerio Parisotto, titolare di Euro Edile, società delle costruzioni, di paese specializzata nei ponteggi al servizio della quale operano oggi circa 100 dipendenti, i candidati risultati idonei ad occupare i posti disponibili sono stati, cioè, solo 7, e la loro assunzione è stata immediata. 7 giorni un auto. E beh, Luca, auto là. Ma solo un attimino, devo scendere giù. Eia. E beh, Giammari. E beh, io sono che questo è tutto il giornale. E tu non vuoi andare a travaglia? Infatti, bisogna comprare un paio di valigie, fanda. Più di una pensione di dartene, 2000 euro, io li lavando. Però pigliati un po' l'ora appresso, gatta, però mi sa manna, mi sa lunga, pigliati. No, che se mi vedi con chissà non mi pigliano. Sì, non so cosa canto, niente per andare, hanno pigliato su Rosetti, i doni, figurati. Chi sa travaglia, fa delle sola certa, niente per fermo, non voglio nessuno, ma chi non confere, devi viaggiare. Catta, chi se non devi riposare per andare a travagliare. Vabbè, va a parlare di Bulmini, no? Sei un'azienda manna. In macchina devi ritrovarmi. Vai, chi dice, vai, le casette, come ti canto sono giunti, uniranno giunti. Ah, gli vi sassare due, andranno a vendere sassare due, che verranno che si quadra nei gagliani, va via i container fatti a casette, drummiani vivi, mangiavano i drummiani, aveva pure un container che era la cucina. Infatti, come ti batti la Maddalena per avviare i container, e i drummiani trattano i container. A sassare due non l'hanno fatto tutti i gagliani italiani. E ora ci visti, mangiavano i drumiani che per fare l'ora che fai giù normale. Sono che mi sono sicuri di travagliare, per travagliare pure un sabato e la domenica. E un po' di gente mi diceva che travagliavano sabato e la domenica. Era pagato a parte quello. Di travagliare un sabato e la domenica, lo so, con travagliare i travagli, buono, capito? Però era una cazzata la zia. Vabbè, intanto se è fuori di casa, se è vivi, e abbiamo travagliato il matto, cosa mi dirà tutti? Ma... Quello freddo in ferro, cazzo, quello freddo che fira, mentre si contane, pacare dai. Mica li hanno organizzati me, finale di bombe a calore, attacca a dare i container, mi. Non l'hai visto me allora. Vabbè, me. A qualcuno che è il calore a noi andare. Eppure io ci andavo spesso lì a vedere a chi erano venuti pure l'appartamento di la zia di mia moglie, e andavamo a vedere anche con la zia di Paoletta, a vedere a che punto era l'appartamento, a vedere i pavimenti che gli dovevano mettere, se li viaggiavano, se li viaggiavano. e lo accompagnava in macchina, no? E allora vabbè, davamo il burulù. Luca è caduto dal letto, sì. Ah no, è l'abito che è sceso giù alla macchina. Bella me! Ciao Maria, è d'ora inteso là. No, non l'hai inteso, no. E un piede. No, non l'hai inteso nemmeno qui. A rimani, mi pare. L'hai inteso. Boh. Ehi, ieri a sera l'ho sentito anch'io. Ehi, nata rimani, cara. In nata rimani, l'hai inteso. A cosa? A Marino. Io in ottava ci provo a chiamare, già si è affacciata in naso alle malassine. A Marino l'ho sentito ieri anche. Già l'ho sentita a Marino. A Cattore e a Bacchigero Matteo. E di Andrea di Libunda, di Sant'Orsola, un amico di Marino. Oh. E poi è cagitissimo, a cosa? A Giuseppe Leoncino. E basta, ma chi si è entrata in altre mani quando io me ne sono andato? Mi sembra che sei ritorno, arriva la sera, me l'ha detto. Si è da casa tua, è entrato Bacchisio. Ma io mi hai attaccato. Beh, adesso va a 102 minuti. E a Marino poi la gente su Bruzzo Manzano. Anche stamattina ho sentito che stava aspettando a Bacchisio. Però, due parole, è attaccato. Sarà stato lavorando. Ma era senza Bacchisio, che era... deve essere che era vicino al garaggio, capito? Era senza da Bacchisio. Non so che si doveva dare un'antenna a Bacchisio a Marino, un'antenna per la beccata. Dai, vado, non fino all'antenna Marino, cazzo, ha fatto un bel lavoro. Ha fatto un bel lavoro Marino, sia una e l'altra. Un bel lavoro veramente ha fatto, avanti dai ci vedi. Già l'ho vista, me l'ha mandata la foto, già lo so già. Un bel lavoro ha fatto. E così dovresti fare tu la stessa cosa. Allora già che tu andavi che ti è fatta così. Andavi come te da me. E cosa si può fare? Ma a voi la viene a fare il buco e da voi ci vede pure un mattezzi così come te. Vabbè. Ognuno fa il modo suo. L'importante è che esce bene e poi è pur sapere un'antenna mia. E io invece metterla, quell'altra del PMR, metterla attaccata al tubo, l'ho messa separata. Distante sarà un metro e mezzo, due metri. E già andava il mattese. Ma sarà buono in più tutti e due una sotto l'altra, come ti ha fatto Marino, è più bella, senti che è più bella là, e va bene, forse è migliore pure piazzata così. Non lo so se magari poi con le onde magnetiche, con tutte e due radio accese, se si danno fastidio una con l'altra, No, non si danno fastidio, assolutamente no. Sono due distaccata pure, chiaro, non la puoi mettere attaccato così. Almeno 40-50 centimetri distaccata dall'antenna, capito? Dall'altra antenna. Intanto della staffa, le staffe sono, mi sembra, da 40-50 centimetri. E va bene così, non danno fastidio né all'una né all'altra. Ma la mia dalla Mantova è staccata, sarà un metro e mezzo, non lo so così preciso, forse anche di più, perché ho recuperato quell'altra staffa che c'erano già piazzate, e l'ho piazzata lì, va? E la gibbiata da burare in brancio, non è che mi sono qua, se ha pintato, la gibbiata di bulloncini così, Ah, ci metto giù bella capita da uscire, ma già rimane dritta, con tutto il vento che ha fatto è sempre lì. Così già andava. Ma si è attaccata alla parte e ha tirato la bimba ancora. E senti che è più bello, gatta. E fai un punto solo dove sono io a te e basta. Non una parte ma l'altra, no. E una attaccata all'altra va più bene, sì, è più bello, là. Ehi, va bene, intanto, ma le randaggi che vi sei no, che vi sei una banda mia, sì, le senti, cazzo. Ma non solo uno, un altro l'ha detto. Ah, i carabinieri, chi va più un baracchino, chi va più l'antenna, manna. E chi te la riposero, i carabinieri. Evidentemente se c'è quell'antenna così grande, il signore è regola. Dunque a noi non ci interessa niente. Se è regola o non è regola, saranno fatti sui. A me mi l'hanno detto, no. E chi ti è rimasto di me, siamo rimasto. Sì, l'antenna puoi piazzare, ma se male si piazza, non ti dice niente da nessuno, già lo sai. Tu l'antenna la puoi piazzare, come ti dice male ti piazza, non è che se mi dici, se mi piazza così, se mi piazza là, no. A piazza come piazza a te, e non ti dice niente da nessuno. Ma chi tu l'ha detto che va più l'antenna, manna, manna? Non sapeva manco di cos'era che c'è antenna, ve l'hanno detto a fraglietti che era del baracchino. E hai detto non ribiazia. Il cura è di, ma... Ehi, che andava così, ma... Ma è Luca merendando sta con la pasta al forno. No, mi ha detto che era sceso giù alla macchina, doveva essere giunta Marina a dargli una mano, magari ci aveva spesa, non lo so. E la bassa la rimorrendesi la cosa, boh? Luca! Giovani! Ebbene Luca, caduto sì! Vabbè, ma sento 2 minuti, là! E dove stai andando? A fare una cosa! Ehi, vai, vai, ci sentiamo dopo, dai! Ciao Giovani, sono in ascolto e sto facendo cosa, dai! Ehi, ya! Ciao Mari, ciao! Ciao Giovani, ci sentiamo dopo, dai! Buffetta! E beh, fatto! E in garage non ci può mettere le lucchette. Ah, in garage se la mette la macchina. No, c'è cazzo in garage, spaccare dai. Pucci! Tutto cagato, Tutto di siringhe, di bucci di capi di siringhe, pucci, cazzo, ma per carità, va. Sono schifosi qua. A chi no, però io la metto nel garage. E ti pulisci tutto il pezzo, ti appenti, se sta toccato le mani, pigli la baretta, un bustone grande e te lo pulisci. Me l'ho già pulito, E che senso ha pulirlo e poi dopo si mettono a cagare, buttare le bucce di siringa e bottigliette, quelle fialette per bucarsi. Non ha senso pulire, che tanto lo sporcano di nuovo, capito? Cosa c'entra Chino che mi figura quando va a pigliarsi la macchina, c'ha la paletta all'interno del garage, c'ha una busta grande. Si per modesta ne raccogli, mica se la lampada la sabbata. E la raccoglie e la mette lì, quando vede che ce n'è un bel po' ci butta il sacchetto. E poi quando rivedi gli dice cosa. E la poi piglia mi migliora tutti i voci che gli esci, o rientra e lampareva tutta la danza, la serranda in terra, e così non si posa neanche in fusi. Al finale hanno detto, l'ho trovato un bambino appena nato dentro un cassonetto, ancora vivo era. Ma dimmi tu, ci sono cose da fare, veramente, ma io non ho parole. Queste persone che fanno certi gesti, bisogna punirli veramente. Punirli a vita, no, a punirli 2 anni, a vita. Quella è qualcheduna che era incinta, ma non fa sapere da nessuno, magari era segregata in casa, ma non fa sapere che va via la banda. quando c'è l'anno va a tagliare in casa se ne rampato un vicino, non hai compreso. L'animale, invece di metterlo vicino, non lo so, alla porta della chiesa, così se l'avrebbero preso i preti, avrebbero chiamato assistenza sociale. Alla palla della mondezza, ma, come se ci rampi la mondezza? Che miserabile sarà! Gente senza cuore. Gente incurigagli, lì, magari è rimasta puttizza da Gaccheduno, cosa ne sai? Allora, magari era del ritardo a farsi gli arazzi prima e a farsela tutta la mondezza, non è complice. Quelli sono peggio degli animali, anche gli animali si ripigliano i cuccioli che fanno, sia legali che l'altro animale. Randleva si cacca randaggia a brucchi, dice bastarde di quelle proprio che non finiscono più. Vedete che palla giù da dagli arazzi. Ma so e daga, non vuoi? Vai giù la gattara, già qualcuno già la trova ogni tanto, però bisogna vedere se ha fatto un ricorsimento la gattara animale. Iuia, aspetta grazie, dai, mi assento un quarto d'ora circa, fallo 20 minuti, dai, sentiamo dopo. Già acceso qua, cari voi, migliori, non li può avere, chi si randaggi, chi virano, se li rampano così, anche un signore la possa crepare. Paciucco, io la dico, guardate, paciucco, compreso, secondo me è un gioco, ma non è un gioco, perché chi si fa un figlio, poi si deve prendere la responsabilità, capito? Vabbè, dopo, ciao. Eia! Mettilo bene qualcosa, era in terra, Buffetto! Ehi, hai fatto, Ehi, tutta l'ho fatta. E beh, e allora? E allora cosa? Fatto, fatto. Ma tu vedi, e te lo dicendi, perché non la metti giù nel garage? Te lo spazzi bene, assai vivo. Bello beh, e oggi cosa buona hai mangiato? Oh, attento Marino, attento Marino, CQ. A chi dice buonasera? Buonasera signor Marino, come la va? Sei un po' bassino oggi, Bacchino, un po' bassino, forse c'è un po' di QRM sicuramente, avanti. Basso solo? Basso, basso. Non si è spostata. Aspetta che un attimino. Ok. Cosa ha peggiorato? Marino, attento Marino. Marino ci sei? Attento Marino ci sei? Bacchisio. Sì, amici non mi ascolti Marino? No niente, è tutto QRM Bacchì. Tutto QRM. E il resto peggiorato? Bacchisio? Sì, mi senti? Ah sì, sento meglio anche se c'è un po' di QRM proprio, già ti ascolto, vai. Non mi ascolti male o bene? Sei sotto QRM, sì. Aspetta che mi sposto un po'. Prova a girarla leggermente. Stiamo sapendo ora? Adesso c'è leggermente un po' pulito, non molto, ma si può... si capisce meglio adesso, dai. Mi devo ancora spostare. Sposta leggermente. E adesso come sono? Più peggio? Sempre... già stai migliorando piano piano. Adesso ho puntato su una fumaiola. E ti poteva preso sempre QRM, hai capito? Adesso è peggiorato. Ah no, è migliorato un po' adesso. Mi ascolti bene adesso? Ho sempre il QRM c'è. C'è ancora il QRM da chi? Allora sono a posto di sta pantella. Potremmo dirti supera il QRM, capito? E adesso è migliorato? Adesso è migliorato un pochino, sì. Adesso è meglio. No. Io non sono puntato adesso. A poco tolgo che sono. Alghero. Però c'è un po' bassino il radio, il segnale è buono, se non leggermente bassino il radio. Meglio di prima comunque già, dai. Anche questa radio qua è la stazione fissa. Ha sempre quel difetto avuto. E adesso è bella pulita, dai. Ah, sempre con il suo difetto, così? Sempre lo stesso difetto c'è questo radio. E non si può fare nulla, mai ho detto io di tenerlo così. Fino a quanto va, quando non va lo metti al montataglio. Aspetta, ma che accendo l'altro apparecchio e mi dice se mi senti, aspetta un attimino. Sì, vado giù, prendo il portatilino, Mari. Avanti, ma che? Sì, ho detto, aspetta che prendo il portatilino a vedere se migliora la modulazione, che ce l'ho giù. Vai, vai. Ma chi, zio? Aspetta, Marino. Avanti. Cambiato. Sì, ha già cambiato adesso un po'. Gommino sta usando? No, sempre lo stesso antenna. Sempre, ma ha già cambiato comunque. La radio ha cambiato, il palmare. Palmare, comunque è più forte la modulazione, dai. Quello è difettoso di nascita, muore così. Questa qui è bellissima, questa va bene. No, è nato male, muore male. Sì, poc'anzi c'era Graziano, Gio Maria. No, si sono sentati. Intanto c'è Graziano, male ha fatto a sentarsi, adesso è tutto sbagliato. Ebbene, mica sono qua che vi ho sentito, ciao belli bei. Ah, ma che c'è cosa di parlare male, sì, ah? Oi, hai sempre in ascolto, sempre l'agguato Graziano, Avanti, da chi? Ehi, è in agguato era, se parla male Graziano, vai solo. Ciao Graziano, buonasera, saluta la signora. Ah, Svitina. In agguato era, no, Graziano. No, stavo parlando con Luca, ma evidentemente è scivolato dentro il letto ed è affugato. Male, affogato per il tavoletto, invece Marina era fatta affogare. E allora, non riesci a alzare né più dal tavoletto? Come ancora in pigiama da rimani, oh, grazie. E allora, solo era di Kenny, non te ne comando, ma dici, non lo diceva Cattale, pure era il tavoletto, dici. Da poi alla fine l'ha avuto dall'altra parte di Luretto. Figurati ragazzi chi vera trabagliente in chi suretto, che trambusto! Cosa è? Bobo, avanti, batti. Ma dove c'è un letto mandroni, chissà però, graziare. Dove c'è un letto mandroni. E allora, fateci fuggire, non te ne comando, lo ha già compreso. E tu è primavera, non hai inteso. Mi pare che si l'ha mangiato, a posto di un travesino rugale si l'ha mangiato. Ora ci vuoi che a mezzodì, a luna, là. No, mezzodì era, non sono andata Marina. Era con l'organico, con la baracca, vendeva e i passeggenti. Aveva il suo cane da vecchia, lì, lo vedo, grazie. È un braccio, non so che ci è rimasto altro. Il più importante è questo, grazie. Ciao Mari, magnato girate, mazzi! Sta maledda va! Ma forse è andata a mangiare una voce a Rumesi, con la reggio! A chi prima ha preso a mangiare Edo? Non cane a ultimo, l'ho preso! E io vedo di zia, occhio alla penna! Chi su mi sa che va appetito! Edo no, e ha mangiato, tu che ti va! E sembrano a te insieme, se le mangiano i tranezzini e panini. Avanti, ma chi? Ma chi sei tu? Lascialo fa, Graziano, lascialo fa, se no si mangia, se il cane mangia un bello, dopo è pesante a tra coltare, invece quando ti siete, cammina di più. E infatti, per la mani ha trastato un'acqua e un braccio, a piano gli altri mangia. Così impara ad andare a mangiare. E allora, non ti compreso, e tu mangi tre volte la sera, anche tu una volta ogni due chiedi. E io ando bene, ma così voce di mangiare, no? Vi siete cazzicati. È un egoista, attore, egoista. Pensa a Edo, non pensa a organi. E allora, Gio Maria ha detto che era in treno, a mezzo mio si è parato durante la baretta, un altro mi, dice che non mangia, sta mangiando a me. Oh boh, Grazie, ho sentito la cosa, Andrea oggi, che fine ha fatto? Non è entrato? Sarà fuggito come tante succitanti scappati in occhi, ha detto che ci sono tutti i bosci mari, sarà parlappato dal vacore. Sicuramente aveva pensato questo, me. Se non è entrato, ha detto che questa è una greffa di anticappati, esce e ci buttò tutto, ci buttò, vai. Avanti, ma chi? Ehi, non ho sentito Andrea, non si è sentito per niente, e qui arriva forte, da me arriva bene. Vediamo se c'è l'ascolto. Andrea? Beh, ma chi c'è ancora corretti? L'hai già pigliato una succa di mani, grazie. Ma che? Mi sta ventato, adesso non entra più. L'avete fatto morire, l'avete fatto. Mari, chissà cosa l'hai detto tu. Chi ci ha contassato animali e ancora l'avrà cimentata in San Radio. L'avete fatto spaventare, l'avete fatto. Ma sentite, questa è una greffa di anticappati, qua esce a scappare, ci butto tutto, ci butto, vai. O sei davvero con i sciali. Non si sa mai, avrà detto, l'ho preso. E allora, l'ha pigliato là sul tumaro. State attesa a noi, bacchi! Si chiama Marvineggiani, dunque è stato tutto. Ma a vedere già, ma fui pensa, perché fui pensa di tornare indietro. Chi c'è ancora correndo, ma o se rimbruttava me la reputazione. Ah, sicuramente con la 25 vedete? La c'è in giro, la vedete che aveva detto Mino ha sentito più me che una massa di anticappati quello. Mimo l'avrà detto se la sente ti non fai tirare a essere un cannau. Sicuramente almeno va qui. Ma grande Andrea, quanti anni ha Marì? Insomma a 20 anni già. E allora già capisce. Grazie, lo sai, io poi stai sentito sulla rimane la voce del dolore, che fa abitava dei cani, magari ha paura dei cani che si giovano. Ha preso un spavento brutto, compreso grazie. E beh, che la piscina l'ha detto, non lo vedi con lo strumento, c'erano gli anticappati, quelli che sono a San Camillo. Beh, fa una busta, no, grazie, avanti da chi? E così grazie, dice di San Camillo Buro, Verani. Ma forse non sto calcolando dove, no. Ha inteso un poco leggeramente, dice, boh, esci, mi sta lontano, va. Ha fatto bene, ha fatto, vai, me non si sa mai, io butta il gemma, non prendo, grazie. Ma come abitavano con l'albero della riva, i chimi? Mari, se tu mi vedi fa vedere con un walkie talkie. Allora, la Jughente era. Hai detto Jughente, Jughente. Ed era di fa vedere con i filmeri, che era di Marco di Smacchi. Senti, alla cena? Ehi, l'infermiere era Romattesi. Cos'è l'infermiere, Romattesi? La batteria che se n'è andata a Graziano, si è scavata la batteria, Marì. Mi hai accorto, ha chiuso il colpo, la batteria. No, io ce l'ho sempre attaccato sopra la carica batteria, ma sì. No, io l'ho lasciato giù. Io ho tre tacchi ancora. E mi hai sopra inserito sopra la carica batteria. Sempre atteso. No, è così, ma ci hai messo il microfonino, ci hai messo? Sì, sto usando il microfonino. Con quello lì abbiamo fatto 13 bacchia, l'abbiamo fatto. Bene, quello sì. No, io non ho attaccato la batteria. L'ho lasciata giù. Il carico batteria l'ho lasciata giù. Ma devo trovare un sistema di alimentarlo. Ragazzi, io chiudo che mi si è scaricato. Già ce ne siamo accorti, grazie, ce ne siamo accorti. Ciao, grazie. Ben sentito e buona cena a te, il QVA. Ci sentiamo domani se concide, avanti, bacchetti. Ehi, ciao Graziano, buona serata, grazie delle quattro chiacchiere, saluta la signora e buona cena a tutte e due, a domani, ciao ciao. Ehi, ciao a tutte e due, chi è in ascolto, a domani, ciao. Grazie Andrea, non lo saluti. Ciao Andrea, alla prossima. Dove sei in ascolto, o è sorprendente, non lo so, che boh, ciao, grazie, ciao. Ciao, ciao. Andrea sarà ciò quindi, anche un pezzo da noi, Marì. Noi siamo vecchi. Sicuramente siamo handicappati, non vengono manco. Meglio carne fresca. Va, magari va pensato, va chiavetto, questi qua mi contagiano, noi non c'entro più, non c'entro, dici. Va bene essere fatti a chiuso, non ci va noi. So che non arrivava più, capito come si stava, vabbè la frequenza è un po' strana, Batti. Qui non arrivava comunque. Arrivava bene, benissimo qui al suo tavolo. Con questa antenna che sto usando adesso, però con l'altra non ci ho provato. So, andava bene per la zona vostra, per la zona mia negativa, forse non ci arriva. Non c'è potenza. Esatto, non c'è potenza, boh. Non lo saccio, non c'è più altro. Tore si è aggiustato la parecchio, no? Tore sta costruendo l'antenna per poter parlare, se non costruisce l'antenna non parla. Ah, così è? E allora, adesso sta cercando i pezzi che gli mancano. Così è. Ma l'altro si è bloccato, così è? Non ho capito, non morì. Da parecchio si è bloccato? L'altro? No, non esce basso di radio, sempre con il difetto ciò. Però sono tutti difettosi con l'apparecchio, sicuramente. No, l'altro si è bruciato, questo esce basso di radio. Ho cambiato microfono, perché ne ho due microfoni, è la stessa cosa, non cambia niente, non è affare di microfono. È affare di non digerisce bene le parole. Ma com'è, non ha giubilato nulla di apparecchio, meno male. Già va bene questo per il momento, va. Io sto usando un portatile, non come il tuo, l'altro, quello da 4 soldi. E funziona bene. E funziona bene con il bacchì, perché funziona bene. Io lo uso in macchina qualche volta, quando ti chiamo, oppure quando ero a Via Napoli, l'altro giorno c'era Gio Maria che arrivava sparato, arrivava a Via Napoli. C'era Gio Maria, Luca, sparati arrivavano, figurati, chiari. E sono due giocattoli, da 4 soldi l'uno. Spendi mucche di quattrini e non c'hai niente. Con pochi centesimi lavorano bene. Esatto. Hai visto? Io lo usavo in macchina così, ero via Napoli, poi c'era Gio Maria che stava parlando e io lo sentivo fortissimo la via. Poi sentivo bene anche a Luca, metà via Napoli, verso giù, verso via di San Pietro. Aveva tutto sparato anche Luca. Per dire, la zona è buona e non lo va a fare. No, in effetti, lo devo dare a coso, a Antonella, a vedere un po' se si può fare qualcosa, se c'è qualcosa da regolare, da sbattere a terra, poi lo apro, voglio vedere se c'è qualche trimmer. Prova a aprirlo, chiami Antonello e glielo dici, se ce la fare qualcosa. Perché è malato, esce basso di radio e dovrebbe dare 10 watt. Sono più forti quelli là, chi sa CP2 che quello lì, Bacchì, o no? Io ti sto dicendo che quei CP2 fanno meglio di quello lì. Con questo devo stare in quello, il CP2 ne compravo 5. Esatto. Purtroppo è così. Bacchì, dove chiudo che mi stavo chiamando? Bacchì, ciao Bacchì, ci sentiamo domani mattina, dai. Ok, saluto in tutti gli ascoltori, anch'io faccio qui, effetti. Avanti Bacchì. Ok, d'accordo domani, ciao, salutissimi, saluto in casa, grazie delle quattro chiacchiere. E ci sentiamo domani o ce la vediamo un po' di tutto, dai. Buona serata ancora Marino, ciao. Ok, ciao. Mi sentite, cambio?